ascolto molto il jazz, no? Tutto il jazz da strada. E, ascolta, hai provato a andare a Birdland Music a far sentire questi tipi così? Guarda, quando avevi segnato la ricorda, vediamo un po' se me la ricorda, aspetta. Bravo, bravo chitarrista, purtroppo quel male ce l'ha portato via, veramente bravo. Questo qua, vediamo un po'. Sì, no, ma ascolta, ma non hai mai provato andare a Belgrand Music? Vedere un pochino se è migliorabile questo tuo modo di suonare, perché allora è difficilissimo trovare una persona che non ha una cultura in questo senso e ha dominato. Io proverei ad andarci. Ah, io sì, l'emozione alla chitarra, la trasmetti benissimo questa. Ma io proverei, così perfetto, no? Anche la background music che mi farei sentire così in testa, direi, ecco, così, no, per curiosità, cosa potrei fare per migliorarmi? Chiedere. Magari è la volta buona, io proverei, sei giovane. Lo so, ma solo che a me piace un sacco la chitarra, molto, molto, soprattutto fare solista. Piano piano, non c'è fretta, cioè oddio, non c'è fretta, la chitarra si inizia da piccoli, poi sai come, no? Se continui più vai più bravo diventi, però è uno strumento che è molto difficile da suonare, molto molto difficile, sono 10.000 accordi che tu sai bene che va, lo sai meglio di me sicuramente, perciò non è che... Guarda, io una volta mi hanno fatto uno spartito di varie canzoni, ma non ne ho mai cavato piede, mai. Così mi metto, profugio, non ci riesco. Domani, con l'orecchio, trovi gli accordi. Poi stai lì a... E poi sai che quel giro di accordi è quella canzone lì. Non è che c'è da sbagliare. Magari ci sarà, cosa ne so, un si minore, un si minore... più 7, un si minore più 6, che non lo so neanche come è. Ecco, una settima, un do settima, una settima aumentata. Ma io con Giuseppe Galau ho fatto scuola, ma non mi è nato il dono della musica, assolutamente, io la zappo a chitarra. Io quando lo devo far ridere, tiro fuori la chitarra, sono la forsea, ma solo perché un puntino, ma non è compito mio. Mancherebbe, magari, una cosa che ho fatto tanto per impararla e non ho manualità nella chitarra, basta, non ho manualità. E io, cioè, mi dai uno spartito, te lo leggo, te lo traduco, ti traduco le battute, ti traduco le figure, riesco anche a comporre, però non vi, ma anche digitalmente riesco a farti dei brani franco, gli accordi, ma non è quello. Non ho il dono, non è innato in me, assolutissimamente, non è innato il dono della chitarra. Però no, mi sta meravigliando questa cosa, vedi Luca, te l'ho detto, io ascolto tantissimi chitarristi, tra i quali fatemi chiedi che è uno dei migliori, nonché Santana, quindi penso a tu quanta musica ho ascoltato. Però ti posso garantire una cosa, prima che ti si spenga la fiamma della passione. È vero! Alla Bergman Music, prova a andare, che ballo, ti porti la chitarra e le esegui quel pezzo così e le dici cosa devi fare per migliorare. Guarda, ti dico solo una cosa, lì conoscono un pezzo da 90 che viene ogni tanto in quella scuola, e lo conosce anche Giuseppe Galau. Se tu vai lì, stai attento, e riesci a esibirti così con quel brano, ma chi lo sa? Allora ho detto, forse mi stia sbagliando, ma non credo, vista l'impostazione timbrica, non credo che mi stia sbagliando, non lo so, non ho mai sentito questo pezzo così, pensavo che era suonato così, giusto per divertimento. Gianni, ma mi ascolti a me? Buonasera, Siri. Mi ascolti, dammi un piccolo controllino, Gianni Ghirri. Sì, perché non ci mancherebbe, se no verrà riuscito, cioè appena devi schiarire leggermente i tuni. Leggermente i tuni, perché come ti sto arrivando? Guarda adesso, hola. No, allora, l'impostazione tonale è sui medio bassi. E adesso? Sempre sui medio bassi, capisci? Una radio corposa, mi pare un HF quello, così non a sentirlo così, aspetta che tolgo il filtro, vieni avanti. Allora io sto usando il Typhoon adesso, con l'MB5, come mi stai ascoltando? L'impostazione sembra un Kingwood, dalla timbrica che hai in AM. Non è male. Ascolta, va bene, dai, comunque sia un apparecchio questo lato. Dimmi la voce com'è. Sì, è perfetta, non si capisce molto bene, non ha problemi. Vabbè, poi se devo fare un'analisi più profonda, vediamo un po' più in avanti. Ea, hola, ecco, mi sto portando un po' il mic dalla bocca, Ma dimmi, chi c'è in questa frequenza? Con Luca, con Pierpaolo, mi pare che infatti l'ho lasciato un po' bianco, così abbiamo monopolizzato. Scusando Pierpaolo, te la mando avanti subito, avanti Pierpaolo. Ea, un attimo, che sto accordando. D'accordo, va bene. Presa. Ea, dimmi già. Aspetta, c'è qualcun altro che vuole parlare? Ehi, ciao Giovanni, ciao Teresa, buonasera. Buonasera signorita. Io stavo ascoltando l'esibizione di Luca. No, Luca, ascolta. Per cortesia, me lo risuoni quel pezzo che hai suonato prima di quello che mi hai detto che ti avevo insegnato? Stavo suonando un pezzo. Per cortesia, lo puoi fare riascoltare? Bravo Luca, No, aspetta, che mi interessa questa cosa, che lo dico subito a una persona, che arriva a Mogol immediatamente. Fammelo sentire Luca. Luca. Ehi, ha fatto suono, dimmi. Allora, fammi di gentile quel pezzo che hai suonato prima. Prima di questa sera preparo il microfono e tutto e ti registro e mando da una persona. Dai, mandalo. Oh Gianni! Adesso qua come mi stai ascoltando? Dammi un controllo qua, com'è la radio? Adesso è più sugli acuti, ok? Come va? Va meglio o peggio? No, era bella in tutti e due i casi, questione di gusti, il suono è una cosa soggettiva, anche questa è bella chiara, più spaventata però è bella. Ah, però è spaventata, allora io sono radio spavento, ma allora non ti ricordi più. Mi ricordo perfettamente, e te lo ricordano anche i miei timpani. Ogni volta che entri abbasso i filtri qua perché diventano assurdi. No, ma va bene però, qual è il problema? No, non ce n'è problema, volevo sapere come stavo facendo con questo. No, ma tutto bene in ambi i casi, capito? A parte quell'antipatico del beep, poi va tutto bene. Allora, Luca. Aspetta, qua non lo posso togliere il beep, qua c'è la nostra latta. Bello, un bel lavoro. Fare in modo che non si possa disinserire, ma cosa, non ce n'è il tasto esterno? No, non ce n'è. Sì. Ehi, già, era più bella quella di prima comunque, la voce di Teresa. Ma se non me la manda avanti non posso dare un giudizio, io la vorrei riascoltare, Luca. Ma questo mi ha detto bene, attentamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mi stai ascoltando Gianni? Sì, Teresa. Che roba è questa? La musica di Natale? Già, canta quella canzone, io. Ma chi non ti piace? No, se non mi fai sentire tutto il brano. Vabbè, un pezzettino, là. No. Ti canto Carraiolo di Rosetta. Ma non cantiamo quella canzone che cantiamo sempre noi. Manda. No, il baracchino l'altro si brucia, mi sta ascoltando io l'altro, poi mi sento gli accordi. Ah, si brucia, manda. Dove andare? Manda quel brano che hai suonato prima, ti suonalo. Ti suono, adesso me lo ricordo più come, Allora, tu ne hai suonato uno poco fa, che era bellissimo. Allora, quello lì ha fatto una scalata, no? E, no, stavo cercando di capire com'era. Però poi, niente, me ne hai suonato un altro, dice che ti ha insegnato col tuo amico, eccetera, eccetera. Però prima ne hai fatto uno in un modo molto fluido. Questo qua, dei gas, questo qua. contattare una persona e ti fisso un appuntamento per farti sentire suonare, ci vedresti? Yeah. aspetta, fammi ricordare l'inizio. Dovrebbe essere così, eh? Aspetta, vaffanculo, coso. Aspetta. Aspetta un attimo. Oh, oh, oh, oh. Dovrebbe essere così, aspetta. Aspetta, anche i cugini, tipo basta di distrarre. Ma io non suona. All'uscita di scuola ragazzi prendevano fumo. Erano dietro la scuola, non li vedeva nessuno. Europa di Sant'Anna, cos'è? Non è sicuramente.